L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti da Achille Corea. Lunedì 13 agosto, puntata numero 11 dell'Italia vista dallo spazio. Questa è la settimana di Ferragosto, settimana di ferie per moltissimi, ma non per tutti, di sofferenza per alcuni altri. Noi siamo qui anche questa settimana per cercare pezzo per pezzo 24 simboli dell'Italia da salvare in questa settimana di Ferragosto. Tratteremo temi un pochino più leggeri, ma state tranquilli che anche nella leggerezza, nelle piccole cose, sono sicuro che possiamo trovare qualcosa che ci aiuti a rappresentare noi italiani. Oggi, ad esempio, vi chiedo di scegliere insieme a noi una canzone. Quale canzone, quale brano potrebbe rappresentarci nello spazio? Ditecelo con un sms al 349-238-6666 o sulla nostra pagina Facebook Italia Vista dallo Spazio. Soprattutto ditecelo all'800-2400. 24. Posto numero 10, in attesa di assegnazione. Ma prima di cominciare a parlare di canzoni, dobbiamo chiudere l'argomento di venerdì scorso. Abbiamo parlato di comicità e ci sono state tanti suggerimenti alla richiesta di scegliere un pezzo comico in rappresentanza dell'Italia. Devo dire che vi ho trovato molto nostalgici, perché alla fine avete scelto una scena tratta da un film del 1956, rendetevi conto, è la scena del vigile, Totò e Peppino e la mala femmina, Noio volevan savoir l'indiris, ancora, dopo 60 anni, quant'è? Dopo una vita, ancora ci rendiamo rappresentati da Totò e Peppino che vanno a Milano e non sanno come parlare col vigile. Pensiamoci, intanto andiamo a cercare una canzone. Posto numero 10, assegnato. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Sarete nostalgici anche oggi? Direte di salvare una canzone di molti decenni fa o ci sarà qualcosa di più nuovo che secondo voi racconta l'Italia, spiega come siamo fatti? È tutta nostra scelta, raccontare l'Italia com'è, come vi piacerebbe che fosse, un'Italia che vi piace, un'Italia che non vi piace, un'Italia che non c'è più. 800 24 00 24, diteci la vostra canzone, la canzone che secondo voi dovremmo inserire nella nostra navicella spaziale virtuale che lanceremo nello spazio il 31 agosto. Noi ovviamente lo chiederemo oltre a voi, lo chiederemo anche ad alcuni ospiti. Il primo ospite che abbiamo con noi è un DJ di lungo corso, ma è anche e soprattutto il vice direttore di Rolling Stone Italia. Benvenuto a Fabio De Luca. Grazie, buongiorno a tutti, ciao Achille. Voi a Rolling Stone, tra l'altro, avete fatto già un'operazione faticosa e laboriosa, perché pochi mesi fa avete fatto scegliere, se non ricordo male, i 100 dischi italiani più importanti della storia d'Italia. Sì, per il numero 100 di Rolling Stone, lo scorso febbraio abbiamo messo insieme un panel di 100 giurati a cui avevo chiesto di votare appunto a ognuno i 10 dischi in parte preferiti e in parte più significativi della storia della musica italiana, di tutti i generi, per cui non solamente il pop, non solamente i cantautori, ma anche le derive new wave, eccetera. Ed è venuto fuori un bel polverone, perché naturalmente la materia è spinosa e controversa, ma anche molto vasta, molto più vasta di quello che uno pensa. Poi ha vinto Vasco Rossi, ma è una sorta di vittoria simbolica, perché veramente tutti quei 100 che c'erano dentro erano delle piccole tappe fondamentali o grandi tappe fondamentali della musica italiana. Sì, quindi noi, insomma, tu sai bene che cosa può voler dire dover dire questo oppure quell'altro, scegliere un disco vecchio, nuovo, famoso, meno famoso. Diciamo che noi a questo punto sappiamo che non può essere una scelta di bellezza, non può essere una scelta di questo è meglio di quell'altro, altrimenti finiamo nel derby Ligabue contro Vasco Rossi, che tanto ci appassiona in quest'estate. Ma la domanda vuol chiederti che cosa di significativo potremmo far vedere con un solo 45 giri, se ancora ci fossero, a questi alieni. Qual è la tua scelta? Guarda, la scelta che faccio è una scelta da, proprio letteralmente da iPod, nel senso che ho guardato qual è il pezzo italiano che ho più ascoltato negli ultimi mesi, in particolare diciamo nella stagione estiva, quella in cui siamo in mezzo, diciamo ne menziono uno e poi vi dico quello vero. Quello che vorrei menzionare è Andrea Nardinocchi, che è un giovanissimo cantautore bolognese che guarda il futuro perché mette insieme la tradizione, bla bla bla, con tutti i suoni invece più elettronici, le derive, dubstep, eccetera. La scelta che invece vorrei mettere nella navicella per mandare agli alieni è Lucio Battisti. Quale Lucio canzone? Battisti con un pezzo in realtà percepito come minore della sua produzione, che è Windsurf, Windsurf dell'82, dall'album È Già, che tra l'altro è il primo album senza Mogol, per cui l'album del futuro veramente, del guardare al futuro, eccetera. Ma è un pezzo che è assolutamente balearico, nel senso che questa stagione qua è la morte sua, nel senso che è assolutamente è quasi ballabile persino, cioè con i ritmi da New Disco, ed è comunque un'operazione assolutamente rotonda e in qualche maniera esemplare del genio incontenibile di Battisti. Mi piace questa idea che comunque alla fine il tuo iPod sa meglio di te che cosa ascolti e che cosa ti piace. Poi in realtà a volte lui sempre, certo. Qualsiasi tentativo di dire di fare un ragionamento poi si frena sui numeri che comunque ti ricordano che cos'è che ti ha ossessionato e ti è piaciuto di più. Senti Fabio, se noi diciamo spesso ci chiediamo mentre scegliamo le cose da salvare dell'Italia se c'è proprio qualcosa da lasciare fuori con allegria in modo tale che quando gli alieni o gli uomini del futuro troveranno la nostra navicella non abbiano proprio memoria che la musica italiana ha prodotto anche quello. C'è qualcosa che ci suggerisce anche per la blacklist? In negativo. Guarda, sinceramente non mi viene in mente nulla, nel senso che poi alla fine anche le peggiori, le più deteriori forme di pop o di titolo disco più becera, risentite anni dopo, riuscivano comunque a identificare qualcosa di quel periodo storico, in positivo e in negativo. Per cui come chiave di lettura, come tornasole, non butterei via niente. Fa anche un po' parte, come dire, del mio essere DJ, nel senso che poi i DJ, come noto, non butterò nulla e troverò magari il singolo campione che riesce a dare un senso a un intero album mediocre. Per cui io di mio non butterei veramente via nulla. Conserviamo perché comunque... neanche il jingle delle ragazze cincin, niente, teniamo tutto proprio. Beh, quello qualcosa lo raccontano dell'Italia, di appunto. Notti italiane solitarie davanti alla televisione, di sogni, diciamo che non anche lì magari lo neghiamo, ma se ci fosse un corrispondente dell'iPod sulle cose che abbiamo guardato in televisione ce lo rischiafferebbe in faccia allegramente. Tu sei quello che guardava le ragazze cincin, a me lo direbbe. Ma pulire, guarda, senza problemi proprio. Allora salviamo questo pezzo minore ma comunque valido di Lucio Battisti. Grazie a Fabio De Luca per essere stato con noi. Grazie mille a voi, a presto. E grazie al vice direttore di Rolling Stone Fabio De Luca. A me non sarebbe mai venuto in mente Windsurf Windsurf, ma a questo servono anche i nostri ospiti, i nostri ascoltatori. 349-238-6666. I primi due sms salvano la ballata di Piero di André e Senza vento dei Timoria addirittura per Angelo. Noi abbiamo un altro ospite subito al volo, è con noi un giornalista ma anche un volto noto per G-Day, dove insomma l'avete visto insieme a Geppi Cucciari. È Matteo Bordone, benvenuto su Radio 24. Grazie. Ciao. Allora Matteo, tu diciamo ti occupi di musica e non solo da molto tempo. So che dover scegliere nel mare della musica italiana, nelle tante cose che la musica italiana vuol significare, può significare, è difficile, però ho visto che tu comunque ti sei già preparato scrivendo per il Guardian una specie di mappa della musica italiana attuale, quindi già comunque sì, hai dovuto un pochino mettere in ordine le cose. Sì, che è stato complicato perché non avevo tanto tempo e quindi alla fine poi, come succede spesso al figlio del ciabattino con le scarpe bucate, tipo ho dimenticato di mettere i baustelle, cioè sono delle cose, o capossela, cose che ho molto care, che ho sentito molto a lungo, perché andare a cercare dentro una cosa nei confronti della quale provi anche dell'affetto, c'è cioè un elemento diciamo professionale, però è un bel mestiere di parlare di musica. Se ti piace la musica poi finisce per diventare un problema, per quello devi andare a scovare, a guardare facendo dei passi indietro. Ecco, devo dire che riguardando cercando di spiegare agli inglesi delle cose importanti della cioè scrive un articolo, adesso spiegare agli inglesi, scrive un articolo per il Guardian sulla musica italiana e metterci dentro il più possibile di informazioni comprensibili per chi non vive qui, ci si accorge che ci sono delle anomalie veramente assurde in Italia. Per esempio, se contiamo i gruppi rilevanti della storia del pop italiano, sì, ma sono meno di 10, sono pochissimi. Noi abbiamo avuto, al di là della prima fase, no, del periodo beat, tra virgolette, dove bastava mettere un articolo e poi ci attaccavi qualcosa e c'erano mille gruppi, giganti, corvi, eccetera, ma sono pochissimi gruppi complessi pop italiani. Per esempio, da quando io ascolto la musica, cioè della mia, insomma, io sono nato a metà degli anni 70, mi vengono in mente i Mattia Bazar, che sono famosi anche all'estero in un certo modo, non tantissimo, però un po' sono arrivati, però voglio dire, roba che non ha un lato indipendente o di ricerca, o perlomeno ce l'ha, ma è tutto nascosto, cioè è pop, puramente pop. Sì, poi mi fai venire in mente che forse spiegarlo agli inglesi, che in un paese non ci sono molte band, è veramente difficile. È complicato, a parte il fatto che Pooh, che è uno dei gruppi più famosi, insomma, più importanti, più rilevanti di questa piccola scena di gruppi del pop italiano, in inglese vuol dire popò, con l'H spostata, senza l'H, però se glielo dici gli inglesi ridono come dei pazzi, a me è capitato di dirlo e proprio si scompisciano. Matteo, al netto delle nostre carenze, che effettivamente possono essere difficili da spiegare all'estero, che cosa ti senti però di salvare della musica italiana? Anche ovviamente perché è morto quest'anno, ma proprio per mia disposizione quasi biografica, perché sono i primi dischi che ricordo di musica italiana, perché li sentiva tanto mia sorella, che è un po' più grande di me, e volevo insomma sottolineare l'importanza di Dalla, che è quello che più di tutti ha fatto meraviglie in un periodo abbastanza breve, tra la metà, la fine dei 70 e l'inizio dell'80, ha fatto solo capolavori. Poi oggi lo si ricorda anche per quella tamarrata di Caruso, che non è niente di pazzesco, però Dalla, Lucio Dalla, Come profondo il mare, sono dei dischi sostanzialmente perfetti. Cosa potremmo scegliere come singola canzone, anche se appunto lì c'erano proprio i dischi, gli LP, ma il nostro gioco è quello, cosa potremmo scegliere come singola canzone e perché? Guarda, facciamo una scelta che non è una scelta complessa, non è una scelta particolarmente strutturata, perché il pop funziona così, perché se una cosa è nelle orecchie di tutti ed è fatta con questa qualità, ha vinto e basta. Nel 1980 la canzone che tutti cantavano, di cui non riuscivano a fare a meno, era una canzone di sommo livello da ogni punto di vista ed è il brano che apre il disco dell'80 di Dalla, che si chiama Dalla. Poi ce n'è un altro precedente del 79 che si chiama Lucio Dalla, sono tutte e due stupendi. Comunque Dalla di Lucio Dalla dell'80 si apre con questo pezzo che per me è una delle cose da salvare, che si intitola Balla Balla Ballerino. Grazie Matteo, la facciamo sentire ai nostri ascoltatori, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Balla balla ballerino tutta la notte al mattino, non fermare. Una cosa che mi piace tantissimo di questo programma: mentre Bordone diceva che salvo Lucio Dalla ma non Caruso, è arrivato l'SMS di Stefano che diceva salvo Lucio Dalla di Caruso. Mi piace molto anche questo. Sono passati più di 30 anni da quanto Bennato si chiedeva se sono solo canzonette, e secondo me non lo sono, perché le canzoni possono raccontare l'Italia, e per questo lo stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di salvare una canzone, e insomma le vostre risposte dicono molto anche di come vedete l'Italia, secondo me, perché si va da Michele, che vorrebbe salvare Viva l'Italia di De Gregori, a Fabio, che invece dice che la canzone più rappresentativa dell'Italia di oggi è la Terra dei Cachi di Elio e le Storie Tese. Ma vorrei sentire un ascoltatore che ha chiamato all'800240024, Franco da Roma. Buonasera. Buonasera Franco, qual è la canzone che scegliamo? Ma io sceglierei la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana. Intanto è una canzone italiana, chiaramente. E poi, voglio dire, una canzone inserita in un ipotetico missile che abbia un incontro con altri esseri viventi, insomma, dà anche un'idea del pianeta Terra, perché il mondo, la notte è cieco sempre il giorno, quindi identifichi sia l'Italia che il pianeta Terra. Insomma. Io mi chiedo questo, una canzone di Jimmy Fontana, risentita oggi, suona fuori dall'Italia odierna o dice ancora qualcosa di noi? Ma qui non è questione di dire qualcosa di noi, il tema è il mondo, insomma, non è che si riferisce specificatamente all'Italia questa canzone, è chiaro quello che vuole dire lei. Va bene. Allora, intanto è una canzone italiana. Beh, quello per forza, noi scegliamo tutti i nostri simboli. Cioè, lei dice, lei, sento troppe canzioni straniere. Non credo alla Radio 24. Comunque ringrazio Franco da Roma. La ringrazio, è molto chiaro quello che dice. Segniamo questo pezzo di Jimmy Fontana, Il Mondo, e però abbiamo tra pochissimo un altro ospite e vi invito a chiamare all'800 24 0024. Una musica può fare cantare li li li la la la maggiore. Una musica. Era il Sanremo del 1999 quando fu presentata questa canzone che enumerava tutte le incredibili cose che si possono fare con la musica e che una musica può fare. A cantarla, a scriverla e cantarla era un interprete musicista che sono molto contento di avere oggi con noi, Max Gazzè, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Max Gazzè, sei ancora convinto che una musica possa fare tutte quelle cose? Ma sì, poi chiaramente lì c'è anche dell'ironia, sai, non è che una musica può fare lì, lì, la lalla, non c'è tanto da fare. Beh, ma l'ironia è sempre stata un po' la tua cifra, sì. Ma sì, poi il ritornello, diciamo, lo spiega in maniera un po' più pratica, salvarti sull'orlo del precipizio. Senz'altro la musica è una medicina che ha dimostrato anche di poter curare sia a livello biologico che a livello psicologico. Max, tu diciamo hai sempre fatto delle canzoni, poi scritte per la maggior parte con tuo fratello, se non sbaglio, sì. E in cui diciamo i testi erano sempre anche un po' surreali, molto ironici, molto immaginifici, ma secondo te la musica comunque racconta l'Italia? Ma l'ha sempre raccontata, in qualche modo racconta i tempi. Ci sono state tante canzoni che hanno descritto l'Italia di quel periodo, sia del passato che adesso, con tutte le sue gioie, le sue difficoltà, i disagi, le disarmonie, le armonie. Comunque la musica è un po' è un libretto di istruzioni della realtà, la considero così, e tante volte attraverso la musica si riescono a rappresentare i tempi che corrono. Max, senti, volevo chiederti una cosa, perché tu sei oltre a interprete e autore di molte canzoni, sei anche un artista che fa una cosa che forse in Italia non è molto diffusa, cioè collabora e interagisce molto con altri cantanti, altri artisti, e quindi volevo chiederti, secondo te, qual è in questo momento lo stato della musica italiana in un momento del paese che, insomma, non è un eufemismo definire così. Ecco, se così, beh, hai ragione. Chiaramente le collaborazioni che ho fatto finora sono sempre stato frutto di frequentazioni e di voglia di collaborare da musicista, da bassista, quindi da strumentista, ho sempre avuto la gioia di suonare con altri musicisti, e anche da cantante, da compositore, mi piace fare la stessa cosa. Ultimamente vedo tante belle collaborazioni in Italia e tanta voglia di rimettersi insieme un po' per ridare vigore, ritrovare un punto di aggregazione. La musica è sempre stato un punto, un luogo anche nei concerti dove la gente si può ritrovare, può stare insieme per assistere a un concerto, e rimane anche adesso qualcosa di bello che accade quando si va ai concerti. La salute della musica e della discografia è un po' precaria ultimamente, ma io spero, credo, mi auguro che sia un momento passeggero. Da ogni fase discendente implica in sé una fase ascendente, quindi mi auguro che si possa ritornare presto a vivere il vigore della musica che c'è stato negli anni 90, negli anni 70, insomma sì. Puntiamo ai corsi e ricorsi. Max, sì. Ti devo chiedere a questo punto, qual è la canzone che hai scelto per noi? La canzone, ecco, parlando proprio di rappresentare l'Italia attraverso delle canzoni viste dal cielo, ecco, penso che un brano che mi ricordo quando sono tornato dal Belgio, ho abitato in Belgio tanti anni, tornando in Italia, ecco, descriveva l'Italia di un periodo, insomma, degli anni Ottanta, comunque Povera Patria di Franco Battiato, che non nasconde di essere sempre stato un grande suo estimatore. Adesso quindi nella canzone che ho scelto c'è Povera Patria di Franco Battiato. Credo che sia una scelta molto chiara, io noto solo che è una canzone del 91, nel frattempo è successo di tutto e forse siamo di nuovo qua a essere rappresentati da Povera Patria. Max, io ti ringrazio per essere stato con noi, ricordiamo che tu sei in tour, domani sei a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, ma poi sei un po' in giro per tutta l'Italia. Sì, in questo fine mese, da adesso fino a fine agosto, sarò in giro un po' al centro Italia, e in Sardegna, e poi dopo proseguirò a settembre e mi sfermerò un attimino per riordinare le idee e pubblicare il nuovo disco. Va bene, grazie, allora ti auguriamo anche buon lavoro per, diciamo, raccontare ancora un po' e suonare ancora un po' l'Italia. Grazie a Max Gazzè. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. E questa è la scelta di Max Gazzè, che era, insomma, il nostro ospite oggi, Dalla, Battiato, insomma c'è anche tanta musica di una certa rilevanza oggi, ma voi ovviamente siete liberi di scegliere la canzone che volete, l'importante è che ci sia una motivazione, che ci sappiate dire: guarda, io Corea scelgo questa canzone per questo motivo. Guido da Brescia, benvenuto. Eccomi qua, grazie a voi, buona serata. Dunque, io ritengo che non esiste una canzone che rappresenta l'Italia in un modo globale, ma ci sono delle canzoni che rappresentano le evoluzioni, l'innovazione che la musica ha conquistato nel corso dei decenni. Per esempio, uno di questi momenti è un autore che secondo me è stato dimenticato, ma che ha rappresentato una profonda novità nel 60-61, che è Edoardo Vianello. Vianello, interprete di canzoni fondamentali per gli anni 60, tipo con Le pinne, Il fuce e gli occhiali, Abbronzatissima, Sul cucuzzolo della montagna. Quale canzone scegli? Ma guarda, con Il fucile e gli occhiali, ma il discorso è la freschezza, la spensieratezza, questo nuovo mondo che si profilava dopo la guerra con questa visione un po' consumistica americana. Io ricordo un bambino e mi aveva aperto proprio un nuovo modo di pensare, di relazionarmi alla musica. Non dimentichiamoci che in quel momento c'era Nilla Pizzi che cantava Vipera. Quindi era rivoluzionario, forse dobbiamo inventare, era rivoluzionario. Grazie Guido, vorrei sentire... Volevo aggiungere un'ultima cosa, e come diceva Montanelli... Era una musica che sapeva di bucato, capito? Di novità. Grazie anche per la citazione di Montanelli, sempre gradita. Vorrei sentire altri ascoltatori. Paola da Milano, benvenuta. Ciao. Niente, tu hai detto che vuoi sapere anche il motivo. Praticamente io avrei scelto I Nomadi e comunque... Quale dei Nomadi? In particolare Noi non ci saremo, non so se è proprio questo il titolo, sì. Dall'olio, sì. Quando c'era l'altro cantante. Qual è il motivo? Veramente rappresenta un'Italia, la parte oscura, diciamo, dell'Italia, un'Italia politicizzata, di rivolta, che poi c'è stato tutto quel periodo... Ma tu la vedi in positivo o in negativo? Ce lo vuoi ricordare in positivo o in negativo? No, comunque è un aspetto, abbiamo vissuto, un'epoca buia dove ragazzi politicizzati si ammazzavano. Va bene, lo ricordiamo. Grazie Paola, sarà molto chiaro. Devo andare un po' in chiusura, prendo un ultimo ascoltatore, però chiedo di essere sintetico. Sergio da Sassari, benvenuto. Ciao, io come canzone vorrei rappresentare, secondo me rappresenta l'Italia, è Aida di Rino Gaetano. Sia l'Italia che gli italiani. Un loro modo di fare molto comune del passato, attuale e credo purtroppo anche del futuro. Ebbene, su questa nota diciamo di un certo pessimismo, purtroppo io però vi ringrazio e vado in chiusura. Naturalmente tutti i voti che voi avete segnalato, tutte le vostre motivazioni, ne vedo diverse per Battiato, Gianluca dice via sms Alba Chiara, Francesco da Saronno dice io non mi sento italiano di Gaber, insomma tutti questi voti anche su Facebook, su Twitter noi li segniamo e domani alle 16.30 torniamo e vi diremo quale canzone inseriremo sulla nostra navicella spaziale e virtuale che lanceremo nello spazio il 31 agosto. Ringrazio Valerio Rocchetti, la parte tecnica, Antonello Migliacci, redazione, grazie a tutti da Achille Corea, torniamo domani. Posto numero 11, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a Italia Vista dallo Spazio @radio24.it.